Nella scorsa puntata abbiamo sollevato il velo su alcuni personaggi della Silicon Valley. Abbiamo esplorato le loro cattedrali ideologiche, i progetti di fuga su Marte, le città-stato private e quel Vangelo tecno-ottimista che vede la democrazia come un vecchio software pieno di bug da rottamare. Ma ogni impero, anche quello fatto di bit, sogni e transumanisti, ha bisogno di braccio. Dietro ogni miliardario che progetta l'immortalità ci sono milioni di persone che pedalano sotto la pioggia, impacchettano merci in magazzini grandi come città, smistano rifiuti e puliscono i detriti tossici della nostra attività digitale. Oggi entriamo nella fabbrica invisibile, parliamo del lavoro al tempo degli algoritmi. Sono Fabrizio C, questo è Piede Sinistro, cominciare dal lato giusto. Siamo stati abituati per generazioni all'idea del lavoro subordinato, ma oggi sta succedendo qualcosa di diverso, di molto più profondo. C'è un intero settore dove il controllo non è più esercitato da un uomo in giacca e cravatta, ma da una sequenza di codice. Questa sottomissione quotidiana a gerarchie ferree e invisibili ci sta educando, giorno dopo giorno, ad accettare un sistema anche fuori dal lavoro. Il problema non è solo sindacale, è politico. Se il tuo lavoro diventa una dittatura tecnologica dove il comando è indiscutibile e non umano, la democrazia stessa si svuota perché non c'è margine per nessuna forma di conflitto o mediazione. Chi perde l'abitudine alla libertà sul posto di lavoro finisce per perderla anche come cittadino. C'è un grande equivoco. Pensiamo che l'automazione serva a liberarci dalla fatica. La realtà è l'esatto opposto. Come sottolinea infatti Irene Doda, la tecnologia non ha eliminato il lavoro pesante, lo ha solo frammentato e reso invisibile. Siamo tornati al cottimo, ma è un cottimo 2.0. Nell'Ottocento contavi i pezzi prodotti a mano. Oggi è un software a contare i millisecondi che impieghi per prelevare un pacco e consegnare un hamburger. Non è progresso, è taylorismo dopato. Il lavoratore o la lavoratrice non è più una persona, è una variabile di un'equazione che deve tendere allo zero. Zero tempi morti e zero diritti. La vera rivoluzione negativa di questi anni è la scomparsa del capo. Il supervisore umano, infatti, è stato sostituito dal manager algoritmico. Provate a pensarci, non c'è più nessuno con cui discutere un turno, un imprevisto, un malessere. Se l'algoritmo decide che la tua performance è calata del 2%, l'app ti disconnette. Fine, senza spiegazioni. Questa è la trasformazione della piattaforma in quello che molti critici definiscono un feudo cloud. Dario Guarascio ci ricorda che questa spinta al dominio sulla tecnica per governare le contraddizioni è il cuore del capitalismo stesso. Non è una novità, è un'evoluzione. Il manager algoritmico è il sorvegliante perfetto, non prova pietà, non dorme mai e non può essere corrotto. Semplicemente è la realizzazione del sogno di ogni padrone fin dal secolo scorso. Tecnologie digitali come l'intelligenza artificiale mobilitano sotto forma di sfruttamento, di frammentazione del lavoro, grandi masse di lavoratori che sono quasi sempre localizzati nel sud globale e quindi esposte a condizioni di sfruttamento ancor più acute, data la natura peculiare di quei contesti, e queste attività sono strumentali e necessari al funzionamento dell'intelligenza artificiale stessa. Quindi abbiamo diverse forme in qualche modo di conflitto, di contraddizione e di dipendenza che, come dire, possiamo, anzi dobbiamo leggere in modo integrato. E non riguarda solo i rider, riguarda tutti, anche chi pensava di essere al sicuro, come i creativi. Ken Obitt, riprendendo le tesi di Cory Doctorow sulla enshittification delle piattaforme, spiega come il lavoro di artisti, artiste e freelance sia stato degradato. Prima le piattaforme ti aiutavano a trovare un pubblico, ora, ottenuto il monopolio, ti tassano. Oggi un artista lavora più per l'algoritmo, facendo reels, seguendo trend assurdi, usando gli hashtag giusti. Il lavoro creativo è diventato manutenzione del feudo altrui. Ma c'è un segreto ancora più sporco, nascosto sotto la parola magica flessibilità. Si chiama ghost work, il lavoro fantasma. Ogni volta che usiamo un'intelligenza artificiale che sembra magica, ricordiamoci, dietro quel software non c'è solo un codice, ci sono migliaia di persone in Kenya, nelle Filippine oppure in India che passano 10 ore al giorno a etichettare immagini di tumori o peggio, a guardare video di violenze indicibili per istruire i filtri di moderazione. In Kenya, infatti, è nata la Data Labelers Association, lavoratori e lavoratrici che hanno deciso di unirsi per difendersi dai traumi psicologici per aver dovuto guardare l'orrore del mondo per pochi dollari, solo per permettere all'azienda della Valley di fare profitti per miliardi. Quell'intelligenza artificiale che molti chiamano pappagallo stocastico non è affatto intelligente. semplicemente sintetizza milioni di frasi scritte da noi, ma lo fa basandosi sul sangue e sulla fatica di questi operai invisibili. E il rischio è che questa apparente logica alimenti i nostri pregiudizi, dicendoci esattamente quello che volevamo sentirci dire, confermando i nostri pregiudizi più orribili. Infine, a rendere ancora più mostruoso cosa si nasconde dietro alle tecnologie, oltre alla questione dei data workers, c'è quella degli operai delle miniere di cobalto in Congo. Un incidente di pochi mesi fa ha portato alla morte di quasi 100 operai e un numero indefinito di dispersi, uno dei tanti casi dove operai addetti all'estrazione di questa preziosa materia che serve fondamentalmente per la fabbricazione di batterie per smartphone o dei supporti digitali, fino ai droni. L'ecologia green nasconde un'enorme contraddizione, visto che il 30% del cobalto presente in commercio arriva da miniere illegali. Maurizio Graffio Manzoneschi ci tiene a sottolineare oltretutto in quale bolla finanziaria vivono queste aziende. Se tu inquadri l'intelligenza artificiale generativa, poi quest'ultimo risorgimento dell'intelligenza artificiale dal 2020 in poi, all'interno del meccanismo finanziario, per cui ci stanno queste aziende che stanno tutte con dei passivi pazzeschi, ma hanno delle quotazioni in borsa altrettanto pazzeschi. E quindi è una bolla che potrebbe esplodere, ma non è detto, però quello che riescono a fare è che riescono ad accreditarsi appunto sui sistemi militari, Guarascio lo spiega bene nel libro come fanno, e quindi sono terreni di sperimentazione, ma neanche tanto, perché poi vengono usati, sono stati usati in Venezuela, sono stati usati a Gaza, beh, sono stati usati negli attacchi all'Iran. E da lì sostanzialmente prendono quel poco di soldi, poco relativamente, ma poco rispetto al grande passivo che hanno, prendono i soldi per continuare a fare investimenti, in sostanza. Ma dove c'è potere nasce sempre una resistenza. Nei magazzini di Staten Island, alle strade di Milano, la classe lavoratrice sta iniziando a colpire l'algoritmo dove fa più male. Oggi la lotta di classe si fa decodificando i parametri di un'app. Lavoratori e lavoratrici chiedono trasparenza algoritmica. Vogliono sapere perché l'app assegna quel turno o quella paga. Chiedono che il software sia soggetto ai contratti collettivi. Stanno trasformando la loro frammentazione in una nuova unità. Perché se è vero che l'algoritmo ci divide, è anche vero che senza i nostri dati e le nostre braccia, quel codice è solo un guscio vuoto. Irene Dode è categorica. Quando un algoritmo organizza la tua vita, la dipendenza è totale. Ma le sentenze, come quella in Gran Bretagna su Uber, stanno iniziando a dire la verità. Se una macchina decide per te, sei un lavoratore dipendente. Punto. In questa puntata abbiamo visto come la dottrina della Silicon Valley si traduca in quella che Guaraccio chiama mercificazione totale della realtà. Abbiamo visto come la nostra vita lavorativa sia diventata un terreno di estrazione per i nuovi fidatari del cloud. Ma c'è un'ultima frontiera, la più pericolosa. Se queste sono le logiche con cui gestiscono i pacchi e i servizi, cosa succede quando vengono applicate alla gestione della vita e della morte? Cosa succede quando l'algoritmo smette di calcolare la velocità di un rider e inizia a calcolare la probabilità che un essere umano sia un bersaglio legittimo? Nella prossima puntata entreremo in un territorio ancora più oscuro. Vedremo come l'intelligenza artificiale e i droni stiano trasformando la guerra in un'estensione letale del codice nero. Vedremo come il campo di battaglia sia diventato l'ultimo laboratorio della Silicon Valley. Questo era Piede Sinistro, cominciare dal lato giusto. A domani.